proprio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. È inutile ci giriamo intorno e dire che io vedo i fantasmi. Iniziate a non dire fesserie. Antonio Conte mi ha comunicato che al termine del campionato europeo valuterà praticamente la sua esperienza, finirà, sente il richiamo del campo, la quotidianità dell'allenamento e questo è comprensibile. Ho puntato sempre su Antonio Conte, mi sento quasi quotidianamente, credo che prenderemo le valutazioni con serenità e con nessuna, la cantera o non la cantera la valuteremo dopo, in questo non è il momento di valutarlo. Agghiacciante quello che dicono, agghiacciante quello che dicono. No, no, vai avanti, vai avanti. So join us through the sun and rain. Go Chelsea, Chelsea is the name. My goodness. Blue is the color, football is the game. We're all together and win is our aim. Vabbè, andiamo avanti, vabbè. Sei tra l'altro in mezzo alle montagne del Trentino, per cui la domanda era se venisse o meno, no? Oggi prendi un premio giornalistico o Canoro? Oggi prendo un premio giornalistico dedicato a Beppe Viola e quindi insomma fa enormemente piacere. Canoro no, Canoro ancora no, nonostante no. Comunque le doti siano quelle che avete sentito, insomma, Siamo al top, poi, direbbe qualcuno. Siamo al top. Io voglio entrare nella, diciamo, nella scena indie. Vuoi entrare nella scena hippie? Nella scena hippie, sì. Io invece vorrei presentare lo Zecchino d'Oro, ma c'è ancora? Credo di sì, è a novembre, no? A novembre, fantastico. Mi candido, tanto le candidature vanno di moda. 800240024, se vi volete candidare come allenatori della nazionale, sento di dover tornare a fare allenatore in un club, avendo così la possibilità di allenare tutti i giorni, grazie al presidente Tavecchio che quotidianamente mi accompagna in questa splendida avventura. In questo momento la nostra concentrazione massima è rivolta unicamente all'europeo, dove cercheremo con il lavoro il sacrificio di sfruttare al meglio le nostre potenzialità. Chi mi conosce sa che il mio impegno sarà totale. Così Antonio Conte, Tavecchio l'avete sentito, il segreto di Pulcinella è svelato, ma una cosa che sappiamo tutti, ma da oggi è ufficiale, dunque una notizia. L'altra notizia è che i gufi hanno colpito in maniera, come direbbe Piccinini, i gufi hanno colpito in maniera eccezionale, perché la Juventus sta, e a me dispiace tantissimo, nonostante qualcuno mi scriva sei contento vero per la Juve, no, sono rammaricato in maniera totale come Pardo, perché insomma squadra italiana e io faccio il tifo, poi io appoggio come sempre il gufismo spinto, ma intanto la Juventus viaggia verso Monaco di Baviera a pezzi, perché Chiellini non recupera, starà a Torino, Marchisio stirato a polpaccio, 30-40 giorni di assenza certificata, e la Juventus perde soprattutto Dybala, anche per lui un problema al polpaccio, non giocherà certamente a Monaco di Baviera, in forza la sua presenza anche nel derby. L'unico degli acciaccati recuperabile è Mandzukic. Trapattoni cosa dice? L'atteggiamento di queste squadre non riescono ad avere un senso tattico come magari noi italiani siamo abituati, e devono, davanti al loro pubblico, devono fare la loro partita, no? Io credo che noi abbiamo le frecce per poter fare gol, perché è sufficiente anche magari fare un gol. C'è chi scrive: ma chi se ne frega della nazionale, per me esiste solo la Juventus. Chi invece scrive: a proposito, 349-238-6666, conoscere l'inglese non mi fa trovare lavoro, magari potrei fare il premier o il tecnico del Chelsea. Questo lo scrive Franco da Mantova. Poi ci sono i compilatori di scalette, come chi scrive: oggi devi fare la puntata dedicata all'Ester con ospiti Nicola Roggero, Paolo De Cani, eccetera. Vediamo, poi ne parliamo con calma. Chi invece si riferisce ad una delle notizie del giorno, cioè a quella di Campari e di Cointreau, ma il prezzo di un Negroni sale sempre. Ci sei, Pier? No, va bene. Allora, lo recuperiamo in mezzo alle montagne del Trentino. Ma intanto, allora, c'è un sacco di ascoltatori che scrivono: ma parliamo di Pantani. No, più tardi parleremo di ciclismo, ma sulla questione Pantani invece io credo che un silenzio sia più appropriato, perché non trovo ci sia molto di nuovo. Sono voci e notizie che rimbalzano periodicamente, ora abbiamo un audio, poi se volete ve lo faccio anche sentire, eccetera eccetera, ma sono voci che rimbalzano periodicamente. Trovo sia in questo caso più elegante un compunto silenzio. Invece parleremo anche della porcheria che succede nel tennis con questa inchiesta svelata da Sole 24 Ore, ma questo accadrà più tardi. Parleremo di Marco Bellinazzo, che ben conoscete, che ha le prese con un bisticcio piuttosto violento con Pallotta, perché ha scritto in un articolo che la Roma è una delle società sul mercato. Parleremo certamente della Juventus e del caso Conte. Magari parliamo anche di Milan, se volete, 800-24-0024, che c'è Berlusconi che ha di nuovo espresso il suo pensiero su Mihajlovic, questa volta Radio Rai. È una cosa che... anche questo è qualcosa di cui è prematuro parlare ora, e quindi dipende un poco anche da come Milan saprà concludere questa stagione. Come si dice agghiacciante in inglese, Pier? It's icing. Ah, Aldo domanda come si dice agghiacciante in inglese? Icing. Agghiacciante nel senso del ghiaccio. Aspetta, adesso ci ragiono, adesso c'è il traffico, no? Già, c'è il traffico. C'è anche chi non ci crede. Sai che c'è anche chi non crede agli infortuni juventini? Charlie, i soliti pagliacci juventini poi recupereranno tutti il giorno prima. Alle loro pretattiche non crede più nessuno. Tuttavia, andranno a casa lo stesso. Traffico. Oggi è il giorno prima. Aha. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Tutti convocati. Convocati. Sarà una Juve come abbiamo visto gli ultimi 30 minuti dell'andata. Dobbiamo essere aggressivi, non possiamo concedere gli spazi ai loro giocatori, perché sono troppo forti, quindi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, difendersi, perché logicamente loro hanno un bel gioco, quindi è difficile, però dobbiamo, come ho detto prima, cercare di approfittare le opportunità che avremo. Allora, Pierluigi, spine chilling, agghiacciante, eh? Mi scrivono i nostri... Spine chilling. Mi scrivono i nostri conti ascoltatori. Disgusting. Disgusting also, yeah. Disgusting what they say. It's absolutely disgusting what they say. Buona. Mica male. It's awful. Awful. Senti, saluta Eugenio Corini. Saluto Genio Corini. Come Genio va? Corini. Buongiorno, tutto bene, grazie. Tutto bene. Dove sei? A Montello? Dove sei? Sono a Verona. A Verona? Ah, qui siamo vicini. Sono passato. Sì. Ma potevi andare a Mondello, però, no, Genio? Non lo so se conveniva andarci. No, io sono abbastanza d'accordo, però ti ha chiamato. No, non ho mai sentito nessun presidente, non l'ho mai sentito. Dunque, non so se posso essere stato un'idea, ma un contatto diretto. C'è tempo. La stagione è lunga, mancano ancora 9 giornate. Può succedere di tutto. Senti, Eugenio, allarme rosso Bayern per la Juventus. C'è chi non ci crede, chi dice la solita pretattica degli juventini, poi recuperano, ma in realtà Chiellini, Dybala e Marchisio stanno a Torino, cioè Marchisio sta fuori 40 giorni e Dybala e Chiellini non ce la fanno, credo non vadano neanche a Monaco di Baviera. Ma io ero rimasto che era Mandzukic, a parte Marchisio e Chiellini, invece anche Dybala non sarà disponibile. No, Dybala non disponibile, problemi al polpaccio, fuori di sicuro, non inserito nella lista dei convocati, Chiellini non recupera di sicuro, Marchisio fuori 30-40 giorni per stiramento al polpaccio, Mandzukic probabilmente lo vedremo in campo. Questa è la storia. Oggettivamente sono assenze molto molto importanti, perché Chiellini portava la Juve a giocare col sistema che gli ha dato grande soddisfazione, che è appunto il 3-5-2, e quando manca lui vedo che Allegri comunque tendenzialmente preferisce schierare una difesa 4. Marchisio è un elemento trainante di grande personalità, che gestisce il gioco sia nella fase di non possesso che di possesso, e Dybala era il giocatore in più, quello che ha risolto una giocata in una partita del genere, sicuramente sarebbe servito molto. Dunque, se era già difficile prima, adesso lo diventa un po' di più, però devo dirti che la Juventus ha una struttura di rosa e una qualità per comunque cercare e provare a fare l'impresa, ed è quello che ci auguriamo noi come tifosi italiani, insomma, che la Juventus faccia l'impresa e vada avanti in Champions. Sì, salvo i gufi ovviamente che esistono e che hanno diritto di cittadinanza. No, c'è chi mi scrive difendi i gufi perché non c'è Mughini. Pardon, Mughini cosa direbbe? Io trovo che sia una minchioneria non sostenere l'unica squadra italiana rimasta nella massima competizione europea. Sarebbe come insultare Giotto o Raffaello. Però io sono d'accordo con il gufismo. Ognuno fa quello che gli pare. Fa quello che gli pare. Non è che tu vai dal gufo e gli dici adesso tu non gufi, mi raccomando non gufare. Se quello vuole gufare, gufa. E ne ha pieno diritto. Cioè, quindi non è che si può a tavolino i sentimenti delle persone. Detto questo, sarebbe bello, sarebbe bellissimo se la Juventus ripresa, questo credo che sia... Quanto calano le percentuali della Juventus, Pardo? Con questa carneficina sportiva... Da 40? No, io tra l'altro ti dicevo da 30 calano a 15. Da 30 calano a 15? Ragazzi, se veramente è tutto così... Io tra l'altro è tutto molto misterioso, perché Dybala ha parlato ieri pomeriggio. Marchinto, poi mi sono trovato, lo saluto, anzi ti mando un abbraccio, una aggiunta ai preferiti, un tweet di Tiki Taka, e poi l'ho visto basta all'una e mezza di notte prima di partire per Paravipatera. Cioè, c'è stato un mistero assoluto su questi infortuni, sì. Però oggi la realtà emerge con una drammaticità sportiva, sì. E non sanno di pretattica, perché è praticamente cosa ufficiale, levo il praticamente, è cosa ufficiale. Eugenio, sei d'accordo? 15%? No, io rimarrei sul 30, proprio perché la Juventus è una squadra che ha delle risorse e a volte in situazioni particolari riesce a dare ancora quel qualcosa in più. E poi ricordiamoci che comunque gioca Morata, che in mezzo al campo non so chi scelta farà, se opterà per un 4-4-2 con Cuadrado e Alexandro sulle fasce, oppure giocherà con Hernanes in mezzo, che quello sarà una scelta secondo me in cui ci penserà fino alla fine, mettendo Pogba in mezzo vicino a Khedira. Potrebbe giocare 4-4-2 con Cuadrado e Alexandro davanti ai due terzini, avresti comunque una copertura sulle fasce, un contrattacco rapido e sostenere due punte che secondo me vanno più servite sui cross, mentre Dybala è un giocatore che ti gioca più sulle linee e sì. Morata può attaccare la profondità. Quindi, formazione. Ti piace, Piero? Sì, mi piace. Allora, Buffon in porta, Alexander a destra, coppia centrale Bonucci-Barzagli, a sinistra Ibra, centrocampo Pogba e Khedira centrali, a destra Cuadrado, a sinistra Alexandro. Davanti Morata, Maggio che risalgo al 25%, mai convinto. Sali al 25%. Sei un venduto, Poi, sei una banderuola. Sono come le quotazioni del Brent, cambiano da un momento all'altro. Adesso è 26, 24, 28. Però no, siamo in quell'ordine lì, dai. Ma dai, ma viviamola. Dalla depressione. No, viviamola. 4-4-2, poi c'è Sturaro che può dare un po' di roba. No, probabilmente giocherà Hernanes comunque, Dicono. Hernanes al posto di? Hernanes in mezzo. Pogba un po' più largo a sinistra, come ha giocato poi all'andata. Sì, in mezzo con Khedira. In mezzo con Khedira. Questo dicono le ultime, poi lo scopriremo ovviamente. Pogba a sinistra 4-4-2. Sì, come ha giocato poi all'andata. Adesso fai il cappello, sì, che oggi ho letto. Ah, io ascolto tutte le. In nazionale non vado, però io ascolto tutte le proposte. Questo ha detto Don Fabio, che due settimane fa a me personalmente ha detto no, no e poi no. Quindi c'ero, testimone oculare, sì, posso giurarlo in tribunale, hai capito? Ma ti ha detto di no, per farti. Così tu dicevi no, e allora poi mi dicono sì, mi fanno fermo. No, però Capello, salutiamo e abbracciamo, sicuramente sarebbe una scelta di enorme spessore. Credo che abbia rifiutato la Cina in tanti recenti, perché probabilmente si è anche un po' stancato di fare dei viaggi. Penso che l'esperienza l'abbia un po' stancato, così occhio e croce, nel senso che comunque è stata complicata da mille punti di vista, sì, non soltanto dal punto di vista strettamente tecnico. Però sarebbe una soluzione di grande sì, prestigio. C'è Domenico, da tifoso del Napoli, scrive: con Eugenio Corini degno di allenare la nazionale italiana, il Napoli avrebbe perso o pareggiato. Attenzione. No, perché si ricorda delle partite col Chievo, che insomma ha una buona tradizione contro il Napoli, e probabilmente questo tifoso che ringrazio si ricorda di queste partite, ma insomma per la nazionale c'è davanti molta gente, qui assolutamente. Senti, tenterei di riappropriarmi della categoria che ho lasciato e ritornare a lavorare presto in Serie A. Certo, ma questo accadrà, vero Pardo? Tu che ne sei tu? Accadrà. Io penso proprio di sì, anche perché insomma Eugenio è stato molto intelligente in campo, no? Uno di quelli famosi allenatori in campo. E pure in panchina ha fatto grandi cose. Grande cervello, quindi poi non è detto che sia sempre una proprietà transitiva, no? Tra l'intelligenza da calciatore e l'intelligenza da allenatore, però io credo che ci sia grande predisposizione e l'ha già dimostrato per l'appunto ampiamente. Eugenio, un'ultima cosa. Mi piace. Per l'appunto mi piace molto. Per l'appunto. Senti, Eugenio, ti chiedo invece tuo profilo per il futuro di Conte. Poi c'è addirittura chi dice dovrebbero cambiare subito Conte via prima degli europei e prenderne un altro. Questa a me sembra follia. Che profilo, non ti chiedo un nome, o se vuoi farlo fallo, ma che profilo di allenatore vedresti per la nazionale? Ma comunque prima avete parlato di Capello, che secondo me forse per la nazionale italiana gli tornerebbe la voglia di allenare, lo stesso Ranieri, o come dicono Donadoni, che comunque ha fatto bene, comunque ha già allenato la nazionale, è un'esperienza importante, dove ha fatto un ottimo europeo. Di conseguenza questi sono quelli che leggo, sarebbero tre profili con caratteristiche diverse, soprattutto Donadoni, mentre Capello e Ranieri hanno un profilo diciamo simile, e Capello oggettivamente ha un'esperienza e ha vinto veramente dappertutto, e Ranieri sta ridimostrando un grande valore, per cui facciamo tutti il tifo per la categoria allenatori italiani, perché sta facendo veramente un miracolo sportivo. Beh, ma è di gran moda la categoria degli allenatori italiani, perché possiamo fare un elenco lunghissimo. Tanto rinverdirla e portare ai nostri esempi così importanti, se pensi che sta vincendo la Premier League, il campionato più ricco al mondo, con delle superpotenze con l'Ester, è pazzesco, questa è la bellezza del calcio. Certo. Ieri ha battuto Benitez. Ieri ha battuto Benitez 1-0, spingendolo un pochino verso la seconda divisione, ma una partita in meno e Benitez, tutti dicono no, con quella squadra Benitez si salva, però Ranieri adesso ha più 5, poi possiamo fare un lungo elenco. L'anno prossimo in Premier League avremo lui, Guidolin e ovviamente Conte, c'è De Biasi che ha fatto quello che ha fatto con l'Albania, insomma la categoria degli allenatori italiani è non solo i toscani, ma degli allenatori italiani è in grande spolvero. Assolutamente. Dunque, Tavecchio non sbaglierà la scelta, perché comunque vada troverà un allenatore molto preparato. Tu dici, vediamo. Grazie Eugenio. A voi, buon lavoro, a ciao. Presto. Ciao. Pardo, ci sei? Sì, sono qua. C'è chi mi scrive: come contento, gente interista mascherato. Ma perché? Ma contento di che? De cosa? Avrei detto qualcosa. Ma non lo so, non ho idea. Adesso. Carla. Dici un'altra frase. Carlo. Bruno? No, qui mi impazziscono centralino. Carla, Bruno, no, niente. Forse è Carla Bruno. No. Forse è Carla Bruno. No, Borsa, mi hanno scritto. È Carla Bruni, eh? Carla no. Bruni? Adesso la ritroviamo. Tra poco seguiremo tutto. Prima però, spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. È il momento di prendere atto e di avere a che fare con una persona che ha dato un recupero della figura e dell'immagine della nazionale, dell'impegno, del sacrificio, e io lo ringrazierò sempre per questo. I destini della vita cambiano, l'Europa è piena di queste grandi meteore, va bene così. Su con la vita, ne prendiamo un altro, presidente, Sterratta Vecchio, la vita continua anche dopo l'europeo, su con la vita. Anche Capello ha detto una cosa interessante, Piero. La vita continua anche senza di noi. Dai. Basco, Troveremo un altro commissario tecnico per la nazionale. No, la vera domanda, ed è una domanda ovviamente sulla quale avremo la lista, quale avremo risposto soltanto in Francia, è se questo tipo di decisione, questo tipo di ufficializzazione potrà in qualche modo disturbare, perché da un lato sappiamo che non fa mai bene, la storia del calcio è piena di episodi in cui non fa bene, e dall'altra però io veramente ho stima profonda nell'atteggiamento di Conte, che penso che se era motivato prima sarà, se possibile, ancora più motivato adesso per dimostrare a maggior ragione. Ma i miei dubbi non sono tanto su Conte, sono un po' sul giocatore, sull'ambiente, anche sull'opinione pubblica. È vero pure che alla fine stiamo parlando di un'esperienza che dura un mese, stiamo parlando di qualcosa di irripetibile spesso nella carriera di calciatore, perché un europeo, un mondiale arriva in pratica ogni due anni, cioè, è qualcosa di diverso secondo me rispetto all'allenatore in scadenza di contratto che dice che se ne andrà e allora poi nella quotidianità di una stagione ci può essere un impatto negativo. Qui siamo di fronte a una situazione, una fattispecie un po' diversa, perché questi giocatori sanno benissimo che comunque possono fare la storia. Possono fare la storia e che comunque il loro futuro in nazionale non dipenderà dalle scelte di Conte, cioè non sarà più lui il loro selezionatore. Il fatto che Conte possa essere riconcentrato... Escluderei, ma l'ha escluso anche lui, ma non abbiamo motivo per non credere da questo punto di vista. Ha detto una cosa interessante Capello, invece, sul solito Capello, su Conte al Chelsea... Ed è questo, sulle maniche e pedalare. Il Chelsea è una società che non ti protegge come la Juventus. Se Abramovic ti compra 5-6 giocatori, non puoi finire al quinto posto. Bruno, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno. Complimenti innanzitutto per il taglio che siete riusciti a dare a questa trasmissione, piacevolissima ed ironica. Grazie. Io mi adeguo a questo taglio e da vecchio interista, lo sottolineo, non faccio gli auguri alla Juve perché portano male. Però mi dispiace veramente tanto che abbiano fuori tutti questi giocatori importanti, perché si sono già creati un alibi per quando tornano a casa. Questo è il mio pensiero. Quindi in punta di fioretto si sono già trovati un alibi per quando tornano a casa. Sicuramente sì, insomma, ecco, contrariamente alla prova eroica che è stata sottolineata l'andata. Quindi domani sera bandiera rossa fuori la finestra, non quella con falce martello, ma quella con l'insieme Bar Monaco, no? Giusto? Insomma, i gufi ci sono per quello. Come pensate che un interista possa di far per la Juve, ragazzi? Non scherziamo. Non ci penso neppure. E io infatti non sto tifando, mi dispiace molto, proprio perché gli abbiamo fornito involontariamente un alibi incredibile per quando torneranno a casa, insomma. Ecco. Va bene, io sentivo... Grazie ancora, auguri ragazzi. Grazie Bruno, eri tu che facevi il verso del gufo, Piero. No, ti pare io faccio il verso del gufo? No, ho sentito un... è dalla regia che lo mandano in onda, i manigoldi della regia. Non saprei neanche fare questo, fa il gufo. Sì, più o meno. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono un gufattone. Sì? Spero, anzi, per di più, sono contento. Sai perché cosa? No. Quant'è il derby? Quant'è che c'è il derby? Domenica. Domenica. Spero che io sono un tifoso del Napoli, vivo a Bergamo, ma sono un tifoso del Napoli. E spero che domenica, come si chiama là? L'allenatore là, come si chiama? Allegri? Allegri, che gli viene la diarrea, così sta a casa anche lui. Ma che lui, ma no, ma no, ma lascia stare, povero lui. Non va bene. Non va bene. Dopo Cruciani vale tutto, però insomma, spero che Allegri gli venga la diarrea, mi sembra attivo, che dice? È sempre Confindustria, Insomma, lasciamo Allegri in panchina. I medicinali, ecco. Intanto sto facendo una partita fra l'Arezzo e Roma e la Fiorentina femminile, Davvero? Torres Roma, che sì, dal torneo Arco di Trento. Ah. Sono arrivato praticamente in campo. Sono in campo. Poi ti faccio fare la telecronaca. Ciao Paolo Condò. Ciao Carlo. Ciao, come stai? Come va? Tutto bene, la deriva è un po' preoccupante. Un po' preoccupante, sì, si parla di lassativi, di cose, sì. Apposta. No, vabbè, ma sai Paolo, i gufi esistono, la Juventus onestamente va a Monaco di Baviera un po' a pezzi. Sì, stamattina ho letto le notizie, prima quella che si sapeva ieri di Marchisio e poi questa di Dybala, sono due botte brutte, due botte molto brutte, perché se ci sono due giocatori che vorrei sempre in campo in gare del genere dove dovrai soffrire a lungo, e quindi Marchisio è perfetto per schermare la difesa, e poi dovrai cercare di colpire nella finestra di tempo che avrai a disposizione, e quindi Dybala, sono assenze che oggettivamente riducono le possibilità della Juve. Definivo un po' misteriose questi infortuni, perché ieri c'è stata l'intervista a Dybala, sono arrivati come un lampo nel cielo azzurro. Ma sì, difatti ho visto che stamattina ho letto la Gazzetta dove diceva che Marchisio era fuori e che Mandzukic e Dybala erano in dubbio, ma ho visto che invece c'erano altri giornali che la notizia non l'avevano. È stata confermata purtroppo, e anche il fatto che a questo punto credo che Mandzukic lo metteranno in piedi, sì, in qualsiasi modo, maniera, certo. e la tempra dell'uomo prima ancora del giocatore mi sembra adatta a missioni del genere, però insomma, Mandzukic e Dybala c'era la potenza e c'era la destrezza, no? Invece adesso Morata, a me Morata piace tantissimo, soprattutto il Morata dell'anno scorso, però è chiaro che Dybala è il fuoriclasse di questa Juventus, fuoriclasse che si è rivelato molto rapidamente in questa stagione. Per andare a Monaco tu hai bisogno del tuo fuoriclasse. Cioè hai bisogno del tuo fuoriclasse, infatti credo che questa sia l'assenza più pesante. Antonio, provincia di Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie ancora per avermi fatto intervenire. Dica. Niente, volevo dire la mia in merito a Conte. Sì. Secondo me non è corretto andare via prima degli europei, anzi alla vigilia degli europei. Finiva gli europei, andava via, salutava tutti, arrivederci e grazie. Cioè preferiva un segreto che non era più segreto per nessuno rispetto alla chiarezza. Sì, vabbè, però tu già stai allenando una nazionale, non è che stai allenando una squadra di club. Ho capito. Quindi vuol dire... Però i giochi si fanno adesso, Paolo. Questo è uno degli argomenti della giornata. È quello che succederà. Lui non è che va via prima degli europei, finisce gli europei e poi va via. L'ha semplicemente comunicato. Io insomma credo che, siccome era un segreto di Pulcinella, ed è evidente che non è che tu puoi spegnere il telefono fino al 10 luglio e poi accenderlo e dire vediamo un po' chi mi ha cercato. Sì. Non è possibile, quindi in base a quello che ci al parere di Antonio sarebbe dovuto rimanere fermo un anno Conte, sì. dopo l'europeo, insomma, mi sembra che sia un sacrificio un po' grande da chiedere a un allenatore di stare fermo. È la cosa più giusta, è la cosa più saggia, e mi viene anche da dire che poi anche per la stessa nazionale dà di fatto una libertà forzata, no? Nel senso che comunque sai che dovrai cambiare indipendentemente, cioè non si gioca alla panchina sull'andamento agli europei, no? Quindi si può fare una scelta proprio di prospettiva che può prescindere dall'emotività di un europeo andato bene o andato male. Quindi secondo me la chiarezza in questo caso era assolutamente opportuna, perché perché lo sapevamo, no, poi già è tutto. Una cosa profondamente diversa da quella che succede in un club, perché quando un allenatore comunica al club che la stagione successiva non lavorerà più lì, per esempio Guardiola, ma Guardiola è un caso diverso perché il Bayern sta lottando per tutto. Sto parlando di casi dove ci sono delle squadre che sono andate male nella stagione e che arrivano a marzo, aprile abbastanza demotivate. Allora se si sa che l'allenatore va via, i giocatori spesso se ne fregano, mentre invece se sanno che l'allenatore rimane e quindi avrà una parola decisiva sul loro futuro, certo. Ecco, ce la mettono tutta. Però con una nazionale che va all'europeo, credo che i giocatori, per la voglia di vincere o di fare comunque bene all'europeo, daranno il 100% fregandosene del fatto che poi Conte non deciderà il loro futuro in nazionale, ma sarà il suo successore. Ragazzi, un attimo di pazienza, traffico, torniamo subito su questo discorso e approfondiamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque torniamo, siamo sul discorso Conte, siamo alla vigilia della Juventus. Paolo Condoppio e Luigi Pardo collegati con noi. Allora Pier, il tuo profilo per l'allenatore nazionale l'hai fatto ieri, no? Quando c'era qui Albertini, e uno dei punti era comunque il carisma e la capacità anche di saper comunicare, di tenere in mano l'ambiente. Non mi sembra che ad esempio Donadoni abbia questa caratteristica. Sì, scusa, ma qua c'è un problema sul pallone che deve essere trovato. Ecco il pallone che arriva. Ecco. Ripeti, cosa stai guardando? Sto guardando, credo, la finale del torneo femminile di Arco di Trento, per Viola, fra Res Roma e Fiorentina. Punteggio? Il punteggio non lo so. Allora chiederò all'allenatore. Ecco, che però sta incazzando. Quindi, e quanto stanno? 0-0. Perfetto. Ah, 0-0. Io non ti sei perso per niente. Non lo sanno. Non è chiaro che minuto sì, io ho visto una palla gol della Roma, cioè calcio d'angolo della Fiorentina. No, il profilo secondo me, ma ieri parlavamo di Donadoni, che mi sembra una scelta interessante, no? Perché comunque Donadoni ha fatto bene in nazionale, è passato con uno che ha fatto male, perché poi alla fine sappiamo che vincere fa opinione o perdere fa opinione, ma è uno che è uscito ai calci di rigore contro la Spagna, che stava per cominciare a vincere tutto. Una protesta ad una rimessa laterale abbastanza ridicola. Detto questo, io penso che si debba sempre cercare il meglio. La scelta di Conte secondo me fu una scelta opportuna, perché comunque in quel momento lì c'era l'opportunità di andarla a prendere. Oltretutto è stato, lo ricordiamo, pagato in parte dallo sponsor. Qualcuno diceva a Tavecchio che sarebbe stata una scelta sbagliata, perché poi ci saremmo ritrovati a dover essere chiari Balotelli per decreto in nazionale, invece Balotelli è passato come una meteora e ha fatto Conte la dimostrato di scegliere. Quindi secondo me è stata una scelta molto saggia, poi è ovvio che si giocherà tutto nell'europeo. Io andrei sul massimo del profilo possibile, cioè per esempio al di là di quello che ti ha detto, insomma, se Capello fosse interessato ci metterei un attimo. Donadoni mi sembra una scelta molto solida di un ottimo allenatore che secondo me è ulteriormente cresciuto negli ultimi anni. Paolo, come la vedi tu? Sì, anch'io sono favorevole a Donadoni come CT della nazionale, perché mi pare che nel suo primo mandato, che comunque, come diceva adesso Pier, non andò assolutamente male, perché insomma in quell'europeo il risultato di uscire ai rigori con la Spagna, non è, visto quello che successe dopo, sì, fu un ottimo risultato. Fu un buon risultato. Ma nel frattempo è cresciuto. Ecco, io diffido sempre, per quanto riguarda la nazionale, dell'incarico dato a un allenatore alle prime armi, che magari ha un grandissimo passato da giocatore. Ecco, per esempio, Mario Sconcerti, il nostro comune amico Mario, recentemente candidò Del Piero. Io gli dissi subito che non ero d'accordo, perché Del Piero, che sarà in futuro, come è stato in passato, una risorsa eccezionale per il calcio italiano, però a parte che lo vedo più da dirigente che da allenatore, anch'io. Ecco, però a parte questo, io vorrei che un allenatore si facesse un'esperienza. Il nome perfetto per la nazionale italiana era quello di Carlo Ancelotti, però giustamente il Bayern ha messo il cappello sulla sedia prima dell'azzurro. Però ecco, io come CT vorrei un allenatore che ha già dato abbondante prova in più squadre della sua grande capacità. Ecco, voglio dire, Ancelotti ha vinto Scudetti e Champions in tutta Europa, e che quindi non dico che lo viva come un pensionamento, però lo viva come un po' il coronamento di una carriera. Io credo che Donadoni in realtà avrebbe ancora la possibilità di lottare per uno scudetto, di lottare nelle coppe europee e così via, però comunque l'esperienza che si è fatto e che ha dimostrato lo vedo buono per la nazionale. Sì. Ecco, dei nomi che ho sentito fare in questo periodo, secondo me potrebbe essere il migliore. Un altro comune amico, dei suoi problemi, permettimi di farmi pubblicità, sì, ma tu che dicevi ha dei problemi di comunicativa, guardate l'intervista che ha fatto con me su Sky, sì, secondo me vedrai che insomma i problemi di comunicazione li ha abbondantemente superati. Li ha superati. Posso dire una cosa sulla prima esperienza di Donadoni, che dobbiamo fare forse anche un po' autocritica ai giornalisti, perché io vi ricordo delle conferenze stampa veramente con un'aggressività nei confronti di Donadoni, sembrava veramente l'ultimo arrivato, cioè c'era molta prevenzione, c'era molta freddezza su di lui. Poi sicuramente la sconfitta contro l'Olanda 3-0 non aiutò, però poi non siamo andati così male, e appunto siamo usciti soltanto ai calci di rigore contro la Spagna. Io credo in generale che quello dice Paolo è verissimo, cioè l'epoca, diciamo così, un po' quasi dilettantistica, no? del filone federale, per cui c'è Coverciano, che è una specie di industria pubblica che se ne frega altamente del mercato e che partorisce i suoi allenatori, anche se sono stati grandi allenatori, certamente Berzotto ha vinto il mondiale, sì, certo, lo ricordiamo, però ecco, io penso che quel tempo lì sia superato. Oggi tu devi andare su degli allenatori che hanno avuto esperienze di club molto importanti. Sono d'accordissimo con Del Piero, perché penso che Del Piero sia un'icona, una leggenda, una persona molto intelligente, ma come tutti deve fare un suo percorso. Non è un allenatore di calcio. Non lo è. Ma se vorrà lo diventerà. Se vorrà lo diventerà. E, ma sono d'accordo con Paolo. Di bruciarlo, ecco, ma cioè, il selezionatore a me non piace, sono d'accordo con Paolo. Sì. Il selezionatore, magari l'icona che tu metti lì. No, serve uno che abbia mestiere. Poi sicuramente il selezionatore e l'allenatore di club possono essere due lavori diversi. Per esempio, siamo visto che sta facendo molta fatica al Chelsea, però Hiddink è un selezionatore molto interessante, perché ha una capacità di sintesi. Sì, molto bravo a fare quel mestiere, lì l'ha già dimostrato. Io volevo a Paolo Condò girare un'altra considerazione di un altro comune amico, spesso ospite di questi microfoni, Maurizio Crosetti, che l'altro giorno disse su Donadoni: la sua opinione a me non fa sangue, cioè non mi eccita così tanto come carisma. No, io invece trovo che, cioè, per carità, è chiaro che Mourinho, ma anche lo stesso Conte, abbiano un altro carisma, siano più frenetici nella loro nell'affermazione delle loro personalità, oppure Guardiola sia un fabbricante di universi, è così. Donadoni è un ottimo allenatore di calcio, secondo me. È un ottimo allenatore che in quel ruolo, ecco, nel ruolo di allenatore della nazionale, io vedo appunto un allenatore che ha avuto delle esperienze nei club, possibilmente delle esperienze importanti, ma che porti comunque la tradizione di un mestiere. Sì, chiarissimo. Conte come Mourinho, io lo vedo abbastanza simile a Mourinho Conte. Sono allenatori che secondo me hanno bisogno anche di una ribalta quotidiana, non soltanto del lavoro. L'ha detto anche lui, poi c'è chi non gli crede. Ma di una ribalta quotidiana, hai ragione perfettamente. Grazie Paolo, alla prossima. Ciao a tutti, buon ciao, pomeriggio. Ciao. Saluto anche te, Pier. Partita 0-0? 0-0. 0-0. Sì, finale 0-0. Tacca più la Fiorentina in questi ultimi minuti, devo dire. Di Verdi, l'arco di Trento, complimenti per il premio. Beppe, grazie. Ciao, a domani. Ci fermiamo per il GR, poi torniamo con le porcherie del tennis, con Bellinazzo che litiga con Pallotta e con altre cose. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Tutti convocati. I nostri ascoltatori ci sono sempre ben informati, come si scrive di SMS: Donadoni va al Milan, Mancini in nazionale, Sinisa all'Inter. 800240024 per far sentire la vostra voce come quella di Massimo. Buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Bologna. Sì. E quindi da tifoso del Bologna dico si augura che Donadoni resti dov'è. Ma non solo, io visto che seguiamo bene tutto l'andamento. Come persona Donadoni sicuramente si è dimostrato una persona molto seria, come è stato a Parma e come a Bologna. Tra l'altro trovo una piazza che sinceramente poche persone si trovano male. È in evoluzione, no, ma poi è una società in netta crescita con dei programmi. Spesso gli allenatori straparlano di programmi, no? Bologna mi sembra una delle poche piazze in Italia dove questi programmi ci siano di crescita. E quindi, e con questo presidente, noi abbiamo passato anni deliranti con una serie di presidenti incredibili. Ora che abbiamo questo presidente, io non so se Donadoni con una progettualità di questo tipo possa rinunciare a una cosa di questo spessore. Anche se dall'altra parte c'è la nazionale. Ho capito, però qui c'è un progetto, poi la nazionale con giocatori che abbiamo in nazionale, non è che gli si prospettino chissà che tipo di giocatori da un certo punto di vista. I club si sa perfettamente quanto tirano indietro nei confronti della nazionale. Ora io non so se lui rinunci a un progetto di questo tipo con un presidente di questo spessore. Sì. Questo lo scopriamo, Massimo. Certamente Donadoni sarà uno degli allenatori in mercato, perché insomma si parla non solo di nazionale ma anche di altre squadre. Ora non so se possa essere il profilo giusto per la nazionale. Io sinceramente vedrei qualcuno di maggiore anche esperienza internazionale, insomma. Capello sarebbe forse l'uomo giusto per molte ragioni, ma indubbiamente Donadoni sarà uno degli allenatori mercato, in un mercato degli allenatori che mai come quest'estate sarà interessante. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ciao, grazie per la convocazione. Grazie a te, dimmi. Ciao, volevo dare un giudizio per quanto riguarda la partita della Juve di domani sera, visto che ho sentito tanti gufi. Io sono tifoso juventino, volevo chiederti un parere su una Juve con un centrocampo a 4 che dirà Pogba e Alexandre Cuadrado sulle ali. Sì, è quello che abbiamo ipotizzato prima anche con Paolo Condò e Pardo, no? E capire in realtà se questa è la partita di Pogba, cioè nel senso che io l'ho visto giocare, lo vedo giocare quasi tutte le domeniche, tutti i mercoledì, però fondamentalmente una vera partita che conta. Domandona questa. Non me la ricordo. Domandona e peraltro legittima, hai ragione. E quindi, visto il valore del giocatore, visto certo, che ogni. Sarebbe ora che giocasse una grande partita in un contesto come questo e in una situazione come questa. Tu dici, hai ragione. Hai ragione perché Pogba, che tutti insomma definiamo fenomeno fuori classe, non è mai stato determinante in una grandissima partita, o si fa fatica a ricordare le grandi partite in cui sia stato veramente incisivo. Questa potrebbe essere l'occasione. Compie tra Torino e Monaco di Baviera in questi giorni i 23 anni. Stavo vedendo prima dei tagli di capelli improbabili, non ho capito bene quale porterà in campo a Monaco di Baviera, ma questo è l'aspetto che conta di meno. Ci aspettiamo, e la Juventus e gli juventini si aspettano, una grandissima partita da fuori classe di Paul Pogba, perché mai come in questa situazione ce n'è bisogno. Allora andiamo a New York, dove c'è Claudio Gatti del Sole 24 Ore, che oggi a pagina 25 scrive questo articolo da brividi sul tennis l'ombra delle scommesse milionarie. È una profonda inchiesta condotta a Sole 24 Ore da BBC e da BuzzFeed, sito preposto. Claudio, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, spiegami qual è la situazione del vaso di Pandora pieno della peggiore immondizia, dal doping alla droga ai finti infortuni ed ora alle scommesse. Cosa avete trovato? Ehi. La possibilità di incrociare il contenuto degli atti dell'inchiesta che la Procura di Cremona ha condotto nello stralcio del tennis, quindi poiché il protagonista era lo stesso di quello del calcio, questo commercialista di Bologna, Manlio Bruni, c'è stato tutto un côté legato al tennis, e da lì sono emerse una serie di evidenze, soprattutto chat, testi, sms, da cui risultava che gli scommettitori avevano capito che il tennis è particolarmente vulnerabile come sport su cui è possibile scommettere alla manipolazione, per due motivi principali. Il primo è che basta trovare l'accordo di un singolo giocatore perché sì, questa cosa possa accadere. Il secondo è il regolamento sulle classifiche, che permette ai tennisti di partecipare a tornei e perdere anche volutamente per vari motivi, senza pagarne conseguenze sulla classifica se hanno già dei risultati sufficientemente buoni. Sì, sì, sì. Quindi questo è l'anello debole della catena. Esatto, perché gli scommettitori puntavano su giocatori che apparentemente erano sfavoriti perché nel ranking molto più bassi, sapendo che i favoriti invece non avrebbero giocato. Questo però era frutto da una parte di insider trading, cioè letteralmente c'erano delle persone preposte a scoprire le intenzioni dei tennisti. Sì. Ma anche risulta da queste chat che c'erano stati giocatori disposti a reclutare i propri colleghi, pagarli perché perdessero. Sì, ma ci sono anche, risultano anche grossi nomi, grossissimi nomi in questa inchiesta. Dall'inchiesta sono emersi più di 30 nomi di tennisti, però in varie situazioni, alcune altamente sospette, altre erano diciamo meno, sembravano essere soltanto oggetto di scommesse. Il problema è che proprio per via di questa situazione della possibilità di fare diciamo insider trading, non è facile stabilire quando il tennista che perde volutamente lo fa soltanto perché vuole conservare le proprie energie e magari se lo fa sfuggire o qualcuno lo viene a sapere, quindi lo scommettitore scommette sulla sua sconfitta sapendo che avverrà, ma non perché il tennista è corrotto, dal tennista che invece si vende le partite. Sì, nelle sì, conversazioni questa seconda situazione risulta essere evidente soltanto nella figura di Potito Starace, sì, che nelle chat risulta essere stato anche pagato attraverso bracciali. C'è da dire che Starace ha negato fermamente e bracciali anche, non sapendo però spiegare come potesse aver passato 3 o 4 anni parlando con questo Bruni di reclutare colleghi, pagarli, chiedere quanto offrire, eccetera. Quindi per insider trading intendi qualcuno che lavora nell'ambiente del tennis e che fa uscire la voce: guardate che questo tennista in questo torneo, in questa partita, non darà il meglio per problemi suoi. No, è più sistematico, perché... cioè, noi parliamo, c'è un episodio molto significativo che tra l'altro era stato già accennato sulla stampa, riguardava Djokovic, cioè il numero uno al mondo, e era stato presentato in modo non corretto, alcuni mesi fa era emerso che era l'accusa che lui avesse venduto una partita, in particolare la partita del 31 ottobre 2007 a Parigi contro il francese Fabrice Santoro, sì, che era decisamente meno nella classifica, molto in una posizione molto, certo, più bassa della sua. Djokovic perse quella partita diciamo clamorosamente, inaspettatamente, e sui giornali si disse uscì l'accusa, ha venduto la partita. In realtà da queste conversazioni emerge la situazione dell'insider trading, e cioè c'era un ex tennista svedese di nome Thomas Nidal, sì, che era in combutta con la cricca di Bruni, sì, proprio in questa funzione di insider trading. Ma lui lavorava per un'azienda di betting online e diciamo li supportava nel fare le quotazioni, però in realtà lui avvicinava, frequentava, partecipava, diciamo, si presentava ai vari tornei per contattare attraverso la sua rete di conoscenze, nello specifico l'allenatore svedese anche lui di Mario Ancic, sì, per carpire informazioni su o lo stato di salute, sì, quindi le condizioni di forma, oppure le intenzioni, perché in questo caso è successo questo. Viene tutto riportato in una chat, per cui noi diciamo sappiamo quello che è successo perché lo dice Bruni, sì, e cioè l'allenatore di Ancic, Mario Ancic, che era uno dei tennisti che partecipava al torneo di Parigi del 2007, sì, incontra la fidanzata di Djokovic, sì, ora moglie, sì, e il giorno prima della partita contro Santorò, li invita a cena per la sera successiva, ma la fidanzata gli dice: no, guarda, ci abbiamo un volo per Shanghai. A quel punto lui capisce che Djokovic avrebbe perso la partita contro Santorò, perché altrimenti non si sarebbe prenotato, certo, un volo per la sera dopo la partita. Certo. Quindi, diciamo, si rende conto che Djokovic aveva intenzione di lasciare andare, diciamo, perdere la partita. A quel punto tenta di chiamare Nidal per comunicarglielo, sapendo che è uno scommettitore, e Nidal avrebbe poi fornito l'informazione a Bruni, il quale avrebbe poi usato una rete di contatti per fare una serie di scommesse, perché, certo, non si possono fare scommesse troppo giocate troppo forti, un'unica, certo, giocata, certo, doveva avere, certo, una rete per, certo, distribuire, certo, le giocate, certo, e non insospettire le società di betting. Questa cosa fallisce perché il apparentemente era quello che risulta, perché poi Nidal e l'allenatore con me hanno in modo un po' contraddittorio negato. Risulta che, insomma, Nidal non viene contattato, quindi non riesce a dare l'informazione, la dà il giorno dopo e dice: peccato, avremmo potuto vincere un sacco di soldi, perché era dato 11-1 Santorò, sì, sì, avrebbero vinto una montagna di soldi. Questo Nidal era letteralmente l'insider trading trader di Bruni, cioè il suo compito era di avere delle informazioni, carpirle in qualche modo, carpirle in qualche modo, e poi trasmetterle alla rete degli scommettitori. Esatto. Ho l'impressione, Claudio, che siamo abbastanza distanti dalla fine di questa storia. Sappiamo anche che, come noto, il tennis dispone di un'enorme quantità di sabbia, e l'abbiamo scoperto in questi anni per coprire i suoi eroi. Torniamo a sentirci, Claudio, tanto credo che l'inchiesta vada avanti. Credo che non sia la fine. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Claudio Gatti del Sole 24 Ore da New York. Dunque, abbiamo scoperto un po' di porcherie. Adesso andiamo da Marco Verinazzo, sempre del Sole 24 Ore, lo salutiamo. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio. Io ho un volo per Shanghai. Hai un volo per Shanghai, perché ti dai la macchia, come ha fatto il patron della Force India. Non è vero, sta a voi ricostruire tutta la storia, insomma, vi do gli insider. Già, tu dici che hai un volo per Shanghai, per sfuggire dalle grinfie del signor Pallotta, eh? Beh, domani, in realtà era tutto il programma per domani, insomma, di vederci e raccontare un po', sì, di news. Ma domani lo facciamo, intanto anticipiamo qualcosa, così facciamo venire la colina in bocca ai nostri amici. Ho scritto, insomma, che tra i vari dossier che ci sono in giro, gli ambienti finanziari, successioni di quote o di intere proprietà, c'è anche quello della Roma. Una notizia di fatto non nuovissima, perché era già uscito qualcosa a fine anno, inizio anno. Ovviamente, insomma, l'ho aggiornata con un po' di riscontri, c'era un pezzo di analisi che non mi sembrava nemmeno tanto eclatante. Ma la cosa ha mandato tutte le furie il presidente della Roma, che ieri sera, con una serie di tweet dall'account ufficiale del club, tra l'altro in tutte le lingue del mondo, ha definito, diciamo, una spazzatura questo articolo, o una sciocchezza, a seconda dell'interpretazione degli slang utilizzati. Bisogna vedere nel Delaware, il paradiso fiscale della Delaware, dove ha sede la società di Pallotta, quale slang usi, no? Sì. Ma in ogni caso, smentendo, insomma, di aver avuto intenzione di vendere la Roma, di avere saldamente in possesso il club, insomma, mi auguro che sia così. Di fatto questi dossier ci sono, al di là delle smentite, su una vendita imminente, di cui peraltro io non ho parlato, ma semplicemente, appunto, di una ricerca di potenziali investitori connessi a una certa delusione per l'affare stadio. Sì. Sì. Sta montando nella dirigenza romana, e di questo e di altre amene vicende relative al Milan, all'Inter, alla festa udinese proveremo a chiacchierare domani senza l'assito della cronaca, sì, giudiziaria, sì, possibilmente. Giudiziaria possibilmente. Intanto Pallotta è anche un po' nella bufera, perché pare abbia detto: no, Totti deve smettere, lo voglio come dirigente. Poi adesso ha rettificato, non ho mai detto che deve smettere. In realtà credo che volesse insultare Totti e prendere me come dirigente, poi si è confuso. Capisco. E finita così, magari giocherò io al posto di Totti, ma diciamo che non potrei nemmeno lucidare gli scarpini al grande capitano della Roma. Quindi tu dici Totti il movimento di mercato, e tu alla Roma da giocatore, e Totti al Sole 24 Ore, ma anche il nome di un dirigente della Roma. Ma guarda, le vie del signore sono infinite, insomma, sì. Io mi auguro che se lo facciano vedere in campo, insomma, per un altro anno Totti, insomma, e che ad amministrare, insomma, la società giallorossa ci siano dirigenti capaci, insomma, di portare a termine questo progetto stadio, che è fondamentale, che non ci siano in giro troppi speculatori, ecco. Intanto resta il fatto che se non vai a Shanghai, se non prendi quel volo per Shanghai, ci vediamo domani. Assolutamente, sai, qui è tutto un mistero. Qui è tutto un mistero. Grazie Marco Verini. Ciao Carlo, a presto, ciao. Domani. Ciao. Allora, sì, ve lo faccio sentire, vi faccio sentire questa intercettazione. E quindi praticamente la camorra ha fatto perdere il giro a Fantani, cambiando le provette e facendolo risultare dopato. Poi è molto più lunga, però dicevo all'inizio, ma a me non va tantissimo di tornare su questo argomento con storie che sono vecchie di anni. Ciao Piero Augusto Stagin. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Sono anni che sentiamo queste storie, che se Ballanzasca e questo che era in gabbia con lui, eccetera, eccetera. Io sull'argomento, guarda, come qualcun altro, non so tu, preferirei un così elegante silenzio. Ma non per omertà, chi se ne frega dell'omertà, non per non dire le cose, perché mi sembra che veramente non ci sia nulla di nuovo. Hai ragione Carlo, io credo che questo sia il sentire o il sentimento di tanti appassionati di ciclismo, soprattutto quelli che hanno amato e amano tuttora Marco Pantani. Andrebbe ricordato in questi 17 anni che per quello che lui ha fatto, per quello che lui ha compiuto sulla sua bicicletta, le bellissime vittorie che ci ha regalato. Rimestare ancora in queste torbide vicende è doloroso e soprattutto non so che cosa porti, anche perché tutto ormai è prescritto, mancano anche dei personaggi, alcuni sono, non solo Marco è morto purtroppo, sono morti anche un presidente di giuria, è morto anche un PM Giardina, che fu il primo tra l'altro a Trento ad aprire un fascicolo per indagare proprio sulle testimonianze di Renato Ballanzasca, che in una sua autobiografia gettò appunto lo spettro della camorra dietro il fermo Madonna di Campisa, giro 99. E oggi, a distanza di anni, possiamo dire tutto, e poi chi è che diciamo dice sì, questa è la verità, sì, questo a tutti gli effetti è quello che è accaduto quel giorno? Non potrà dirlo nessuno. Questo è un esercizio doloroso, difficile, che può servire a tutti gli effetti per così alleviare parte del dolore a mamma Tonina e alla famiglia di Marco e a quanti hanno voluto bene Marco, ma non so fino a che punto questo esercizio faccia del bene. Non so nemmeno io, guarda, non so neanche se possa servire come palliativo al dolore. Dimmi una parola sulla stagione che sta per ripartire invece, cioè che è ripartita, ma adesso vabbè, ci proiettiamo sulla Milano-Sanremo. È ripartita, pensa che uso questo bellissimo plurale, correndo da gennaio, però a tutti gli effetti oggi si conclude la Tirreno Adriatico. Guarda, io sono uno di quelli che vede l'inizio della stagione con il Laigueglia, poi. Bravo, e comunque mi raccomando, sabato 19 marzo, festa del papà, no? Sì. Quella era la data storica della Milano-Sanremo, torniamo a correre, c'è il primo grande appuntamento, il primo slam, grande slam del ciclismo, che è appunto la Sanremo, e grande favorito. Purtroppo io temo che gli italiani saranno delle comparse, non abbiamo un uomo di punta e dobbiamo accontentarci magari di qualche appiazzamento con Sonny Colbrelli o Elia Viviani o Sasha Modolo. Però i grandi favoriti sono soprattutto gli stranieri, con Fabian Cancellara che è in grandissima condizione, così come il norvegese Kristoff, campione del mondo Peter Sagan o Mark Cavendish. Cioè, insomma, poche parole, per noi c'è veramente poco da fare. Non c'è troppa trippa, ma torniamo a parlarne, Piero Augusto, siamo solo all'inizio. Grazie, un abbraccio. Ciao, abbraccio. Grazie a Piero Augusto Stagi, a Giorgio De Luca, il nostro autore Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani dopo l'Europa, alle 14:07 o giù di lì. Ciao! Goofy, state a casa!